Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tu credi nel destino, Nio? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Ecco, questa è la profezia che più spaventa l'umanità, o perlomeno una parte dell'umanità, quella che consapevolmente si allontana dagli strumenti della contemporaneità per comunicare, per perimetrare il mondo, per riflettere, dicendo: Dio mio, stiamo cambiando, non è più nulla come prima. E la colpa, naturalmente, è della tecnologia, la colpa è degli strumenti che ci mettono in connessione gli uni con gli altri e ci danno una lettura del mondo. Esistono due posizioni: esiste una posizione inconsapevole, una posizione che usa gli strumenti, la contemporaneità ce l'ha a disposizione, non si pone problema di cosa fosse prima, cosa verrà dopo, li usa e basta, vive felicemente questa contemporaneità ipertecnologica, iperconnessa, multitasking. Esiste in realtà un'altra posizione, che è una posizione molto sospettosa, che potremmo concretizzare oggi, se vogliamo legarci alla cronaca, all'atteggiamento del primo cittadino di Vigonza, comune del Padovano, che ha detto ai ragazzi del suo comune: datemi i vostri smartphone, io vi ridarò la vita. Lo sintetizzo, naturalmente, non dice questo, dice: se mi date gli smartphone vi farò riscoprire il piacere di usare il vostro cervello nelle relazioni come si usava una volta, in cambio vi darò una gita scolastica. Ora, il sindaco di Vigonza l'avrete poi ospite nella trasmissione Effetto Giorno di Simone Spezia, vi dirà esattamente la sua posizione. Oggi analizziamo questo atteggiamento da un punto di vista diverso, con illustri interlocutori e che fra poco vi presenterò, facendovi in qualche maniera riflettere anche sul fatto che se noi esseri umani abbiamo creato delle tecnologie, queste tecnologie altro non sono che la nostra palestra per sperimentare una nuova fase della nostra evoluzione. Non è che noi, come molti pensano, perché abbiamo in mano uno smartphone, perché siamo ormai abituati a seguire i nostri percorsi su un navigatore satellitare, perché la nostra cultura la apprendiamo attraverso la rete, non più attraverso libri, diventeremo più stupidi. Diventeremo qualcos'altro, organizzeremo diversamente il nostro cervello e probabilmente miglioreremo, perché in fondo la nostra funzione principale è quella di evolverci per vivere meglio. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. La domanda che molti si pongono, delle categorie che vi ho appena elencato, è quella: come cambieremo noi nel cambiare delle nostre attitudini, delle nostre abitudini, la nostra possibilità di relazionarci con il resto del mondo, la nostra possibilità di apprendere attraverso delle macchine. La paura o l'amore spassionato per le macchine ha sempre diviso l'umanità, ma in questa maniera, in questo momento particolare, in questo particolare e per me fortunatissimo frangente, le macchine sono in qualche maniera la metafora di noi stessi. Quello che noi facciamo, quello che ogni giorno noi digitiamo, quello che noi cerchiamo, le maniere in cui noi ci relazioniamo attraverso altre persone, attraverso macchine, altro non sono che una sorta di prova su strada, lo dico per cercare di essere comprensibile, il mio pensiero non vuole essere troppo astratto, di quello che noi saremo. Quello che noi facciamo è quello che noi saremo, o quello che già siamo e non ce ne rendiamo conto. Su questo argomento vorrei sentire una delle, forse la persona che è più qualificata, perlomeno dal punto di vista dei suoi studi e della sua storia di pensiero, a darci delle risposte, perlomeno il suo punto di vista, che è il professor Derek De Kerckhove. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professor De Kerckhove, dovrei perdere tutta la trasmissione per descrivere quello che ha fatto e raccontarvi quello che è. Vi dico che è considerato l'allievo di Marshall McLuhan, è quello che da anni studia proprio tutte le mutazioni dell'umanità attraverso l'uso delle tecnologie per comunicare. Il suo primo libro è stata per me una Bibbia, era Brain Frames, era del 91, ce l'ho ancora in mano, l'ho portato adesso come feticcio. Il suo ultimo libro, ce l'ho sempre in mano, è La rete ci renderà stupidi? punto di domanda, edizioni, edito da Irruzioni. Professor De Kerchove, le pongo subito una domanda concreta e pratica. Secondo lei, perché una parte così grande dell'umanità ha paura di diventare stupido attraverso la rete? Non c'è sempre stata questa sorta di rischio esistenziale di diventare stupidi? Perché oggi in particolare si pensa che l'uso che noi facciamo delle tecnologie di comunicazione possono in qualche maniera attentare la nostra umanità e quindi renderci abbrutiti, tornare indietro nella catena evolutiva. Ma l'idea evidentemente viene del famoso articolo "Is Google Making Us Stupid?" da Nicholas Carr. E l'idea era la base di un argomento di cui mi sono occupato da anni, essendo molto interessato ai grandi cambiamenti sociali e psicologici che vengono dopo che si cambia, l'uso del linguaggio, no? A partire dal linguaggio orale, attraverso il linguaggio scritto e su carta, e adesso il linguaggio elettronico, no? Che cambia, e ogni volta c'è una rivoluzione sociale e psicologica, e molto grave anche, con guerre, con ristrutturazioni politiche, con un sacco di eventi che stanno arrivando anche adesso. Allora, che vuol dire? Vuol dire che il cambiamento psicologico è quello che è più interessante. Se invece di portare il linguaggio dentro di te, il lettore, tu ti metti tutto fuori su qualche schermo e condividi questo con tutti, eventualmente il tuo cervello comincia a cambiare, il modo di pensare, di organizzare. Che si perde? Si perde evidentemente gli elementi di base e le fonti della cultura precedente, quello che era proprietario del linguaggio. Oggi non siamo più proprietari del linguaggio. Nel passato, di lettore, avevo una privacy della mia mente, avevo la possessione delle cose che interpretavo, della cosa che leggevo. Oggi basta essere in strada con il telefonino spento per essere tracciato in tutti i modi. Vuol dire che essere sulla rete è delegare la proprietà della nostra intimità, del nostro essere, a qualcuno che se ne serve. Ma questo, mi scusi, professore, questo qua... Finisco l'argomento, perché fondamentalmente il problema è lì. Non ci rende stupido la rete, ci rende totalmente diverso. E questo è il problema. Come andare lì, piuttosto che semplicemente negoziare la sopravvivenza di valori e di attitudini che sono ancora presenti, possono essere diffusi, ma non possono essere contro, il cambiamento in corso. E questo è quello che volevo dire. Lei fa una metafora che forse rende tutto questo più facilmente leggibile a chi ci ascolta, una sorta di, lo chiama Pinocchio 2.0, è il burattino che si evolve in un essere umano, e questo sembrava il miracolo possibile, cosa che a me è sempre stata molto antipatica. Pinocchio era meglio da burattino che da bambino, era antipaticissimo. Comunque, quando diventa essere umano, in questa fase però riacquista qualcosa del suo essere prima burattino, perché attraverso la rete in qualche maniera si ristruttura, si riprogetta. Quello che ancora non riesco a capire: perché c'è questo terrore? Cos'è che spaventa tanto? Le faccio l'esempio più vicino alla nostra attualità. Non so se lei avrà già letto i giornali italiani, avrà visto che c'è un sindaco in provincia di Padova che ha detto ai ragazzi del suo comune: datemi il vostro smartphone, ve lo tengo per una settimana, così riacquisterete comunque la possibilità di vivere meglio, di vivere in maniera più normale, più naturale, in cambio vi premierò, vi farò fare una gita scolastica. Ecco, lei pensa che sia possibile oggi tornare indietro, cioè sequestrare agli esseri umani i propri strumenti di evoluzione per tornare a un passato che in realtà non ci salverebbe naturalmente da rimanere ancorati a una fase precedente della nostra evoluzione? Ecco, cosa direbbe lei a questo sindaco che dice ai ragazzi: datemi il vostro smartphone come se fosse una via di salvezza? Ma io direi, prima di tutto, bravo lei, magnifico, un'esperimentazione da fare è veramente una buona idea, però non sperare, questo è il segno di un ritorno indietro. No, certamente no. Il problema è di conciliare la proprietà di se stesso e quella che è condivisa sulla rete, con la chiacchierata permanente del Twitter e di Facebook e tutti quanti. problema è veramente di trovare un punto. Diciamo che noi abbiamo niente più possibilità di tornare indietro che l'uomo del Rinascimento poteva tornare al Medioevo, letteralmente no. Perché? Perché la base è l'elettricità. Senza l'elettricità niente di questo sarebbe possibile, non sarebbe il digitale, non sarebbe niente delle cose, niente delle comunicazioni che abbiamo oggi. Vuol dire che la base, io dico sempre, è fondamentale di capire che la base del problema viene dal cambiamento del sostegno principale del linguaggio. Il linguaggio umano è la base della nostra comunicazione. Allora il sindaco è bravissimo, però allora che direi, che sono le strategie che possiamo mettere in posto per proteggere la nostra identità passata e le strategie cognitive di conoscenza, di costruzione, di creatività che possiamo aspettare delle nuove possibilità, perché si deve anche parlare. E questo è il problema da risolvere in mio senso. Per esempio, la lettura la lettura su carta fissa, non su schermo. La lettura su carta fissa è l'unica situazione dentro di che sei perfettamente proprietario e completamente, diciamo, gestitore del linguaggio. Lingua è fermo, non si può cambiare e serve di base alla costruzione interna del lettore. Quindi mi sa, professore, che succede nel data fronte di qualche schermo, tu stai mettendo sul schermo tutte le tue strutture cognitive passate. Come sostenere l'identità privata? Obbligare i ragazzi a leggere su carta fissa nelle scuole, per un po', abbastanza per dar loro la consistenza interna di che hanno bisogno. Io chiamo Gesuiti 2.0 l'ordine di pedagogia attuale. I Gesuiti primi, quello di Ignazio di Loyola, avevano inventato una pedagogia per i ragazzi che imparavano da leggere, vuol dire da conoscere il linguaggio sul suo modo scritto e su carta. Questa, dopo l'invenzione della stampa, evidentemente, questa cosa fa che i gesuiti hanno creato una sequenza pedagogica europea e che ha continuato fino adesso. I gesuiti 2.0 devono fare per il 0.1 la stessa cosa che si è fatta per le lettere dell'alfabeto. Questa è la nuova tecnologia. Lei vede proprio, professore. Scusi? No, dico, lei vede all'orizzonte comunque un rappresentante di questi gesuiti 2.0? Verrebbe di pensare al Papa, che è un gesuita, ma non so quanto abbia di 2.0 in quello che dice. Beh, io ho presentato ieri, era ieri, alla Fiera del Libro, un libro che si chiama Professione YouTuber. Questo libro è esattamente il tipo di manuale che darei nella scuola di Gesuiti 2.0, la possibilità di far capire ai ragazzi che il loro futuro è non hanno la promessa di qualche impiego, non sono a tempo indeterminato, devono creare il proprio lavoro. Per questo sono capaci di tornare media designer, di fare un uso intelligente della rete, di capire come creare un bel YouTube, un bel video. Tutto questo, diciamo, essendo parte di una visione più larga di che cosa dobbiamo imparare nelle scuole oggi. E allora va molto oltre di semplicemente dire che stiamo perdendo l'attenzione che ci serve per la lettura, la possibilità di fare calcolo. Tutte queste cose sì, è vero, ma i ragazzi non sono stupidi. Se si trova altrove, aspettiamo di ritrovarlo, ma non abbiamo bisogno di occuparcene. È un problema, non dico che non è un problema, ma per mantenere questa dimensione del nostro essere personale, privato, serve la lettura su carta. Quindi è un po' come noi abbiamo studiato, la nostra generazione ha studiato il latino e il greco, e tutti dicevano serve perché serve un esercizio mentale. A noi dicevano, la nostra generazione, fate il liceo classico perché è un esercizio mentale. Nessuno di noi oggi usa più latino e greco nel proprio relazionarsi quotidiano, però l'abbiamo studiato, in qualche maniera dentro di noi lavora. Suggerisce il professor De Kerchove, probabilmente anche al sindaco negazionista di Vigonza, negazionista dell'utilità dello smartphone, dice sì, fateli lavorare un po' su carta, ma come è un esercizio di proiezione di quello che è stato il passato, però in realtà ci fa capire che il futuro, se lo ha scritto professore youtuber, è quello di inventarsi qualcosa che ci mette in continua relazione. È l'esposizione di se stesso, la moltiplicazione di se stesso, che dà le chiavi per impossessarsi della contemporaneità. Ci fermiamo soltanto un istante, 800240024. Tra poco potrete fare anche voi le vostre domande al professore De Kerchove e agli altri nostri ospiti. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog, cronache meridiane. La domanda era: la rete ci renderà stupidi? La domanda come punto interrogativo è posta al professor Derek De Kerchove, che ha scritto un saggio proprio da questo titolo, La rete ci renderà stupidi, edito da Iruzioni Castelvecchi. In realtà risponde a uno scrittore americano, Nicholas Carr, che aveva detto, pensando veramente, che la rete ci renderà più stupidi, la rete ci impedirà di fare delle operazioni che facevamo, ci sostituirà, diventeremo qualcos'altro, senza una connessione in rete non sapremo essere più niente. Questo ha permesso di sviluppare un pensiero che in qualche maniera l'ascoltatore Riccardo ci sintetizza, almeno dal suo punto di vista. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io appunto seguendo il vostro argomento mi è venuto in mente che anche dal punto di vista biologico ormai è un dato appurato, cioè le funzioni che non vengono utilizzate si perdono. Banalmente su scala sociale, 100 anni fa tutti, o comunque il 90% della popolazione, sapeva coltivare un campo. Adesso credo che molti di noi avrebbero dei problemi a tirarci fuori delle patate, insomma. Sì, perché è cambiato anche il metodo di coltivazione, questo. Ma Sì, esatto. E quindi forse dal punto di vista sociale la specializzazione che consegue poi a un'evoluzione di tipo tecnologico ci porta a vivere in società migliori, più integrate, ma dal punto di vista del singolo, il singolo diventa molto più specializzato e quindi più fragile, più dipendente da ciò che gli sta intorno. Questa, diciamo, io voglio rivolgere questa sua domanda. Lei dice sì, generalmente diventiamo tutti una grande società intercomunicante, ma io quando mi trovo solo a casa, poi se non c'ho il supporto di tutta la rete che mi sostiene, mi dà elementi di riflessione, mi supplisce, mi aiuta a trovare il miglior albergo al miglior prezzo, cosa faccio? Faccio un esempio mi è stato suggerito stamattina da Fabrizio Intonti, che mi assiste in questa trasmissione. Fate un esperimento: quando vi trovate con degli amici a una cena, dite chi è capace di fare una divisione, provate a fare una divisione a tre cifre. Beh, mi ha fatto questa mattina l'amico Intonti la prova e la sfida a me. Io non sono riuscito più a fare una divisione a tre cifre, ero convinto di saperla fare, mi impappino, non sono più capace. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Luca. Storico e filosofo della scienza, tra i saggi ricordiamo l'immarcescibile Perché la tecnologia ci rende umani, Sironi 2009, e Connessi, beati quelli che sapranno pensare con le macchine, San Paolo 2014. Vediamo, Stefano, se mi aiuti un attimo, mentre il professor De Kerchove ci sta ascoltando, a sintetizzare un po' quello che abbiamo detto e a suddividere quelle che possono essere le varie paure e le varie risposte. L'ascoltatore Riccardo ci dice ma sta cambiando qualcosa dal punto di vista della percezione individuale. Il nostro cervello atrofizza alcune sue funzioni, che mi sembra l'esatto opposto di quello che dice il professor De Kerchove. Poi chiederemo a lui. Ma intanto io direi questo, ricorderei se non altro questo: il nostro rapporto con le tecnologie non comincia con le nuove tecnologie. De Kerchove su questo è un maestro, ma il nostro rapporto con la scrittura alfabetica ha profondamente, radicalmente e una volta per tutte modificato il modo della nostra specie di stare al mondo, il che significa di relazionare, di commerciare, ma anche di ricordare e di pensare, come ci ricordava appunto Platone. Per tornare all'esempio del sindaco, farsi restituire i telefonini per consentire ai ragazzi di avere un'esperienza più autentica del mondo e della realtà, mi sembra un esperimento ingenuo da un lato e irresponsabile dall'altro. Io ai ragazzi proverei a insegnare pratiche, metodologie che consentono loro di avere un rapporto più critico e consapevole in una realtà che ormai è inevitabilmente, piaccia o non piaccia, aumentata dalle tecnologie. Però vedi, da come la leggeva il professor De Kerchove, è quasi il proporgli uno sport estremo, una gara di sopravvivenza, vedere come sopravvivono oggi in astinenza di questi mezzi. Bravo, hai usato la parola giusta, è come proporre l'astinenza, che se c'è una cosa che proprio vogliamo considerare contro natura è l'astinenza. Quindi se noi vogliamo vivere contro natura, pratichiamo l'astinenza, sia quella fisica che quella tecnologica. Se invece vogliamo vivere nel mondo che ci è dato vivere, impariamo a calarci con consapevolezza nelle pieghe di una realtà che è in costante evoluzione. Di questo dobbiamo prendere atto. E siccome la realtà è in costante evoluzione e le tecnologie fanno parte di questa realtà, noi dobbiamo strutturarci con categorie intellettuali che ci consentano di assimilare queste tecnologie, minimizzando quelli che sono e ci sono i rischi e i pericoli, e ottimizzando invece le opportunità, avendo sempre presente sullo sfondo gli obiettivi che vogliamo perseguire, al di là dell'evoluzione delle macchine che bene o male scandisce la nostra specie. Tu dicevi prima che avevi tra le mani Brain Frames. Sì, ecco, ce l'ho qua. Dove, sì. Ecco, in quel libro, che anch'io ben ricordo, a un certo punto Derek, che saluto, diceva una frase molto bella: noi siamo la continua reinvenzione delle nostre stesse invenzioni. Questo concetto non è ancora stato digerito. Se noi vogliamo capire chi siamo, se vogliamo rispondere all'imperativo dell'oracolo di Delfi, bene, dobbiamo chiederlo alle macchine. Dobbiamo interrogare il nostro rapporto con le macchine. Se continuiamo a considerare semplicemente come dei corpi estranei da noi e non interroghiamo invece come le macchine riscrivono di volta in volta il nostro modo di abitare il mondo, beh, mancheremo continuamente il bersaglio, non solo, non individueremo le opportunità aperte dalle nuove tecnologie e nemmeno d'altra parte riusciremo a individuare quelli che sono gli effettivi rischi e gli effettivi pericoli. Diversamente si potrebbe invece lavorare con una qualche consapevolezza in più. Allora, professor Derek De Kerchove, abbiamo messo nuovi elementi all'analisi della sua riflessione. L'ascoltatore Paolo è preoccupato perché dice si atrofizza il nostro cervello. Invece mi sembra di capire, da quello che leggo nei suoi libri, da quello che dice anche Morigi, che in realtà il nostro cervello semplicemente si rimodifica, si riadatta, si evolve in qualche maniera nell'uso delle macchine. È un po' come se noi avessimo ormai una periferica della nostra capacità di ricordare, di memorizzare, di concepire il mondo, e questa periferia è come una memoria esterna, come avere un hard disk che noi ci teniamo fuori. È esattamente così o è diversamente così? No, è sempre più così, è sempre più condiviso, però devo dire che sono stato assolutamente impressionato della bellissima presentazione di Paolo. Devo dire che sono d'accordo su assolutamente tutto, però possiamo dire una cosa: la richiesta di avere una migliore conoscenza del nostro rapporto con le macchine, chiedere alla macchina la nostra identità, per dire, è perfettamente imposto. È per questo che avevo parlato del Pinocchio 2.0, che noi con il cinema americano, ma non solo con questo e con tutti i romanzi che si scrivono, siamo a cercare che forma ha l'uomo nel futuro, una volta che ha superato, diciamo, questa love affair, questo rapporto intimo con la macchina. Che dobbiamo tornare? A tutti i modelli vengono un po' di questo. Il problema è sempre un problema di, Pinocchio è uno che si il burattino era quello che si mentiva a se stesso. Noi, pretendendo di essere ancora come eravamo nel passato, senza che niente sia successo, è letteralmente la menzogna che noi ci diamo senza capire che dobbiamo andare oltre. Allora, cioè, la domanda è che tipo di uomo, di persona arriva oltre? Io ho detto anche che il nostro futuro è di essere un avatar, no? Che avatar è il nostro destino in certo modo, con la sopravvivenza permanente, almeno che tal che dura l'elettricità, diciamo, fonte di tutto questo, essere eternizzato sulla rete, per dire. Ma la grande paura a cercare la nostra identità, e perché stiamo perdendo la vasta, e questo è il problema. Allora, stiamo perdendo l'identità passata, e infatti tutti perdono l'identità. C'è un grande problema globale oggi. Allora, professore, c'è un piccolo problema che devo dire ai nostri ascoltatori. Siccome lei chiama dall'estero, c'è un ritardo, quindi lei ci mette un po' a ascoltare le mie domande e io ho difficoltà poi a interloquire con lei, ma è semplicemente un problema tecnico, non è che ci parliamo addosso. Allora, vi lascio un punto di riflessione per un istante, mentre noi mandiamo l'interruzione per la pubblicità. Probabilmente, visto che il professor De Kerchove ha citato Gesuiti 2.0, una vera paura è proprio che in questo momento l'umanità si stia ricostruendo quello che nel passato è stato concepito come anima, come dimensione metafisica, come sopravvivenza. In realtà la memoria delle nostre relazioni, la memoria dei nostri atti, la memoria dei nostri atti cognitivi, tutto quello che noi in qualche maniera teniamo in un cloud che sarà sempre più specializzato, più individualizzato, sarà l'esatta corrispondenza di quello che tutte le metafisiche e tutte le religioni hanno chiamato anima. Noi ci stiamo costruendo esattamente la grande matrice in cui ci permetterà di continuare a interagire con il resto del mondo anche quando noi non saremo più definiti nella nostra condizione biologica. Che ne dite? 800 24 00 24. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ci troviamo in un punto sospeso, come se fossero dei funamboli che camminano sulla corda. Ai due estremi ci sono, da una parte c'è il primo cittadino di Vigonza, che tra qualche istante, alla fine di questa trasmissione, avrete ospite la trasmissione Effetto Giorno di Simone Spezia, che ha detto ai suoi ragazzi: datemi i vostri smartphone. L'ha messi tutti in un sacchetto, l'ha chiusa a chiave, dice: adesso comincerete a vivere. D'altra parte abbiamo il professor Derek De Kerchove, che è un analista profondo, è un sociologo della mutazione dell'umanità attraverso l'uso dei sistemi di comunicazione, prima semplicemente quelli visivi, la televisione, poi adesso quelli elettronici. Ha scritto un saggio, La rete ci renderà stupidi, edizioni Castelvecchio, e dice che in realtà ci stiamo ricostruendo qualcosa che assomiglia molto alla nostra coscienza, che ci darà l'idea di eternità. Abbiamo l'ascoltatore Paolo in ascolto. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Insomma, vi parla una persona che ha barattato l'acquisto di un motorino con il primo computer allora disponibile nell'84, che era il Commodore 64. Sono un tecnologo. Come fu vista allora la sua scelta dai suoi amici? Come? Con voi questa macchina che ci fa invece del motorino? Come fu vista? No. Fu proprio una passione che ebbi già dall'inizio. Quando avevo 14 anni, quindi ormai parliamo di 30 anni fa. Ma non era su questo che volevo intervenire, volevo portare la mia esperienza di mio figlio che ha 18 anni e ho visto proprio che con l'utilizzo del telefonino il suo linguaggio da verbale è passato a un linguaggio scritto. E io volevo dire che non c'è da preoccuparsi sostanzialmente, perché se in famiglia si dota di altri strumenti, si invogliano i propri figli a leggere di più, a fare qualcosa di diverso che tenere sempre il telefono in mano, veramente allora ci si può accorgere che queste nuove generazioni si stanno evolvendo verso qualcosa di nuovo che potrebbe essere anche alternativo al nostro modo di vivere, e deve essere compreso. E qua la comprensione è un tema che secondo me dovrebbe essere più sviluppato, perché l'utilizzo di questi strumenti è sostanza. Non so se riesco. No, è molto chiaro, è molto chiaro, Paolo. Allora, do in rapida sequenza, ripeto la sequenza dell'altra parte della trasmissione. Stefano Moriggi, che ricordo uno storico e filosofo della scienza. Stefano, su quello che dice Paolo, in realtà Paolo apprezza e include nella propria famiglia la protesi emozionale, come l'abbiamo sempre chiamata, cioè lui capisce che quello strumento è inutile toglierlo, è una sorta di astinenza che non porterebbe a nulla. La persona che fa troppa astinenza poi diventa un assatanato, quindi non si ritrova nemmeno può essere un esercizio momentaneo, ma per riprendere con più gusto a fare quello di cui ci si è privato. Invece mi sembra che l'ascoltatore Paolo ha una via mediata intelligente. Ci so che lui ormai questo strumento fa parte della sua natura, natura, cerco di dare a supporto qualche barlume del vecchio mondo che lui sta per abbandonare, per dargli possibilità e conforto di fargli capire come funzionava prima. È qualcosa del genere? Sì, guarda, non ti rispondo con parole mie. Nel 1984 a Buenos Aires, Italo Calvino tenne una lezione che si intitolava Il libro, i libri, proprio in occasione della festa del libro, quindi posto del tripudio della carta e della scrittura appoggiata sul supporto carta. E nelle parti finali di quella conferenza scriveva: penso che una società più avanzata tecnologicamente potrà essere più ricca di stimoli, di scelte, di possibilità, di strumenti diversi e avrà sempre più bisogno di leggere, di cose da leggere e di persone che leggano. Quindi questo lo diceva Calvino nell'84. Non abbiamo paura che queste tecnologie devasteranno completamente tutto quello che c'è. Certo, porteranno delle rivoluzioni che andranno gestite culturalmente. Non sarà una questione di aggiornamento informatico, cioè banalmente imparare a usare uno smartphone, una LIM in classe piuttosto che il computer in ufficio. Bisognerà riflettere profondamente sull'interazione inedita che sta emergendo e sulle conseguenze di questa interazione anche a livello sociale con le tecnologie, e attrezzare modelli di comunicazioni, modelli didattici, modelli cooperativi anche nel contesto professionale, che siano in grado di rendere significativo il nostro rapporto con le tecnologie, anche perché tutta questa gestione, riflessione sulla tecnologia, insisto, non è che succede oggi per la prima volta, ma è sempre successa mutatis mutandis ogni qualvolta nella storia una tecnologia ha fatto irruzione nel mondo. Fermo lì, abbiamo capito, ha cambiato. Diciamo che Morigi sostiene che addirittura dal pollice opponibile, il primo utensile che ci è capitato ad avere per le mani, in tutti gli effetti, l'uomo ha cominciato a ragionare tecnologicamente, a cambiare il suo comportamento e cambiare anche la sua maniera di percepire. Allora, professor De Kerchove, lascia lei proprio la conclusione. Ma in questo momento, secondo lei, è in atto un tentativo di controriforma, di ritornare a un mondo vecchio, a una struttura che in fondo rassicura, ma che in realtà non ci porta da nessuna parte? Non lo vedo veramente come un trend, una tendenza molto, molto forte. Vedo piuttosto una problematica di resistenza che succede. Sono contento degli interventi che ho sentito, perché realmente sono persone molto, diciamo, più moderate verso questo tipo di giudicamento di valore, per dire. La cosa è che dobbiamo veramente inventare strategie per mantenere anche ancora una forma del nostro essere precedente, diciamo. Non è che si può veramente, come abbiamo visto, non si può tornare indietro. Allora, che sarebbe la riconciliazione tra un uomo individuale della cultura della trasparenza totale che sta arrivando adesso, e della cultura anche di comunicazione permanente? Infatti vuol dire allora che noi abbiamo un rapporto come individuali verso il mondo che è totalmente diverso di quello che avevamo quando avevamo la possibilità di mantenere tutto dentro. Invece, portando le cose fuori, stiamo moltiplicando le strategie cognitive che abbiamo a disposizione, come stiamo moltiplicando gli strumenti di produzione che abbiamo a disposizione per fare cose che sono sempre meno costose e potenzialmente sempre più interessanti. Io ho capito, professor De Kerchove, in una sua parola da dove nasce tutto il sospetto. Siamo nella civiltà della trasparenza. A tutti noi fa un po' paura e dà molto pensiero l'essere trasparenti, ma dovremmo abituarci anche a questo. Alla prossima! We'll be right back.